Serviglia, vitella, ma mio crudele, barbaro vicino, nunzia io vengo di pace, e tu nel campo il fratello mi svegli, quando attendo la sposa, aspersa del suo sangue, le sue spoglie tu porti agli occhi miei, fece le ingiurie sue e le sue ferite, e tuo vitella, indarno, caduta in sangue, a raviverlo istinto, l'anima gli mandasti. E Magno l'uccise, e tanto basti. Inumano, fellò, basta cor mio. Fittegli a mirin faccia, non mi guarda Serviglia, un nemico insinato, il padre in Roma, un misero trofeo, a valore sfortunato, a vittoria infelice, che più sperare del mio destino dice. Ma se m'odia Serviglia, odio la vita. Serviglia, andiamo, andiamo, come furie tiranne, Magno è pronto bersaglio e le vostre rive. Uccidetemi, presta tua Serviglia, o vitella, il ferro che brandisci e la preghiera, fuggine le corde piane. Serviglia, eccoti il ferro. Il ferro prendo. Tu ne farai crudel, tu ne farai. Eccomi. Non vi credo.